È con noi Federica de Le No Choice, che saranno in un concerto teatrale il 1 febbraio alle ore 21 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Federica, ben trovata. Ciao, ciao Federico, possiamo andare avanti a giocare con i nomi. Beh, sì. Nomi miei. Senti, per chi è all'ascolto, chiaramente spieghiamo cosa sono, chi sono le No Choice. Allora, le No Choice, siamo un duo, quindi ci sono io e Mero Van Dijk, che è una ragazza, una mia amica olandese musicista, che suona la chitarra, il sintetizzatore, 800 pedali di loop station per la voce, per la chitarra, eccetera, eccetera, gestisce un quantitativo enorme di strumentazione. Io scrivo i testi e lei scrive la musica sostanzialmente. Raccontiamo storie. La musica non è un tappeto sonoro su cui io parlo, però è proprio veramente un concerto, nel senso che sono storie pensate per voce e per musica. Non c'è moltissima gente in Italia che fa questa cosa. Io un po' nostalgica, sono stata sempre molto innamorata di Laurie Anderson, del suo modo di raccontare storie usando dei suoni, usando la voce in un certo modo. Diciamo che se devo proprio dire qualcosa a cui posso ambiremo a somigliare di più. Senti, come nasce questa storia? Questa storia nasce, ma in realtà è nata perché ci ho messo un sacco di tempo prima di pubblicare il mio nuovo romanzo che uscirà adesso a marzo, però per molto tempo è stato latente in questi tempi di attesa sfinenti, in cui le case editrici manco ti dicono no, non mi è piaciuto. E quindi ero molto frustrata, no? Come tutti quelli che passano 3 anni a scrivere un libro e poi non sanno che fine farà. E mi è venuta voglia di scrivere delle cose più brevi da portare direttamente senza dover chiedere niente a nessuno, senza dover passare per le pubblicazioni, per quei tempi biblici. E Mero si era appena trasferita a Roma per amore, una matta, cioè praticamente un olandese che viveva negli ultimi tempi negli Stati Uniti, faceva concerti, così che si trasferisce a Roma. Quindi è arrivata per amore qui tutta fiduciosa e ha trovato questa situazione italiana non proprio incoraggiante per chi vuole fare arte. E quindi eravamo tutte e due in un momento di latenza e ci siamo dette perché non cominciamo a collaborare, non facciamo delle cose insieme. E quindi abbiamo iniziato. Senti, la caratteristica di genere è una peculiarità molto forte in voi. In realtà i nostri pezzi, a parte il famigerato Lesbica Tardiva, è stato molto amato e anche detestato, soprattutto dai maschi ovviamente. A parte quello, oppure un pezzo che si chiama Maschio o Femmina, in cui racconto le mille volte in cui per strada mi hanno fermato emeriti sconosciuti per chiedermi se ero maschio o femmina, o per dirmi che avevano fatto una scommessa, c'era chi diceva che ero maschio e chi diceva che ero femmina. Quindi racconto tutte questi gender troubles, se lo vogliono dire in inglese. A parte questo, non è che siamo così connotate su questa questione del gender. Semplicemente io penso che essendo lesbiche, poi questo esce fuori, come anche se sei etero, no? Cioè se racconti qualcosa che ha a che fare con l'amore, uscirà fuori che sei innamorata di un ragazzo o di una ragazza, cioè quello che sei esce, però non è così politico. Siamo state politiche solo con Lesbica Tardiva perché comunque ci siamo un po' scocciate di queste femmine che vengono maltrattate o che pensano che sia normale farsi maltrattare dai maschi, quindi era un po' oh, svegliatevi, lei ci siamo noi, e poi era un po' di pubblicità tendenziosa, come si dice, per portare tutte le femmine a noi. Senti, frequentate molto la dimensione dal vivo? Nell'ultimo anno abbiamo girato parecchio, anche in Italia, non soltanto a Roma, sì, in diverse situazioni, dai locali a piccoli teatri, il Quarticciolo è il teatro più grande in cui faremo questa cosa, però l'abbiamo fatta anche su stage enormi o per strada, sì, quindi stiamo sperimentando anche varie formule, magari alcune volte sono più proprio concerto, con molti pezzi proprio musicali, canzoni. E invece giovedì saranno maggiormente delle storie, proprio storie musicate, per esempio racconterò di quando per anni sono stata la stalker di Patty Pravo, per esempio. Ah sì, abbastanza sempre la cifra è sempre divertente, non Sì. riesco a scrivere se non mi diverto. Senti, nel corso delle performance si è definito un po' meglio il vostro pubblico di riferimento o ancora no? Guarda, quando siamo uscite con Lesbica Tardiva, ovviamente c'è stato un grandissimo flusso di lesbiche che si sono sentite, Chiamata in causa. sì, anche un po' rappresentate in qualche modo. Poi dopo Lesbica Tardiva abbiamo fatto uscire, sai che la coppia non va più di moda, e le lesbiche ci hanno ripudiato, perché a parte che la coppia purtroppo va ancora tantissimo di moda, io non sto parlando di amore, sto Sì. parlando proprio della coppia come istituzione, il santino della coppia che noi stiamo cercando di abbattere perché secondo me almeno uccide l'amore, che invece mi piace tantissimo. Siccome le lesbiche stanno invece in una fase rivendicativa, perché comunque se ci pensi le unioni civili sono appena uscite, quindi questo tentativo di normalizzarsi, no, finalmente. E quindi proprio su questa ondata arriviamo noi, no? Guarda che la coppia non va più di moda, oh, svegliati! E quindi ci hanno ripudiato. E allora abbiamo un po' cambiato target e ci stiamo, si sta cominciando a mischiare. Senti, nel tuo percorso c'è anche un importante periodo radiofonico. Sì, io ho lavorato a Radio Città Futura, e è stato bello quando potevi fare quello che ti pare. Prendere il tatto, andare in giro e intervistare la gente. Una volta ho fatto il Vagina Day l'8 marzo. No, è stato molto divertente, sì. Io ho lavorato in radio, ho fatto la filmmaker per 14 anni, ho lavorato per Fox, ho fatto una serie televisiva sul Cammino di Santiago che si chiama Santiago, anche le lesbiche sono pellegrine. E diciamo che ho sempre scritto. Poi usando vari supporti, la voce, le immagini, oppure più semplicemente i libri o i racconti, però la scrittura è quello che mi interessa. Oh, rispetto a parole e musica, facevi riferimento prima a Laurie Anderson. Altri vostri riferimenti? Amanda Palmer, lo so, stiamo puntando molto in alto, ma non è che ne imitiamo, cioè semplicemente sono quelle figure. Certo. Le guardi e dici, cavolo, c'è gente che ha fatto veramente una vita bellissima, che sta sperimentando delle cose stupende. E Amanda Palmer sicuramente, sia quando faceva parte del duo Dresden Dolls, però adesso mi piace moltissimo il suo progetto, sia da sola che con il marito Neil Gaiman, mi piace moltissimo. E anche da lì abbiamo preso, cioè, quest'idea che le parole si potessero sposare con le canzoni, con la musica, quindi proprio mischiare insieme linguaggi completamente diversi. Ok. Senti, tornando al concerto del 1 febbraio al Quarticciolo, la formula concerto teatrale implica una performance, immagino. Sì, nel senso alcuni pezzi, sì, ci sono anche delle dimensioni performative, anche se io non è che sono un'attrice, cioè per me l'idea è semplicemente come trovare il modo di portare una storia nel modo più coinvolgente possibile. Ok. Quindi sì, i pezzi hanno diversi tipi di dimensione performativa, ci sono alcuni che sono proprio racconti, altri che sono proprio più performance, dipende anche da quello che raccontiamo. Senti, oltre ai vostri pezzi su YouTube, avete pubblicato? Ci piacerebbe fare un CD, però questo è il mio progetto soprattutto, cioè, mi piace, però vedo quanto è lento il progetto, mettere insieme comunque tutte le cose che ci servono per farlo, non è proprio velocissimo, poi Roma non è la città della velocità, diciamo che sicuramente uscirà come al solito con i tempi un po' romani, un po' nostri. A questo punto ci lasci tutti i vostri riferimenti web per saperne di più sulle date, sulla vostra attività? Guarda, noi abbiamo banalmente una pagina Leno Choice su Facebook e lì ci trovate, Leno Benissimo. Choice. Sì, dicono che i web sono finiti, che non si fanno più, a noi non ci è parso vero. Veramente forse l'abbiamo anche fatto, ce l'abbiamo anche un sito web, però Ok. non ci viene mai nessuno. Sembra che sia vero, che sia finito. Allora, ricordiamo il concerto teatrale del 1º febbraio alle ore 21 al Teatro Biblioteca Quarticciolo con Leno Choice. Federica, un abbraccio e ci si vede a teatro. Sì, vediamoci tutti là, un abbraccio fortissimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao!